and gentlemen, may I have your attention, please? Va ora in onda un programma in lingua italiana. Presented by Andy Mangiarati. www.andreamangiarati.com. I love Italy. Yeah. I love Italy. Don Andy Mangiarati su Radio Miami. I love Italy. Yeah, yeah. Yeah. Italy più che mai in questo periodo abbastanza crudo, è un periodo veramente brutto per la nostra nazione. Siete su Radio Miami International, la WRMI, la voce che sta entrando nelle vostre case è quella di Andrea, conduttore della trasmissione appunto I Love Italy. Vi ricordo che siamo in onda su kHz 7780 pari a metri 41, su kHz 5950 pari a metri 49 oppure 5950, fate voi, e dulcis in fundo su kHz 9955 pari a metri 31. Solitamente all'interno di questa trasmissione parliamo della nostra nazione, siamo molto allegri, molto spensierati. Purtroppo in questa trasmissione di quest'oggi lo siamo un po' meno, perché come ben sapete questa brutta epidemia del coronavirus ha ormai colpito quasi tutto il mondo. E in apertura volevo ringraziare degli amici che mi hanno scritto tramite email, tra l'altro gentilissimi, anche chiedendomi la mia situazione fisica, come sto, perché come ben sapete insomma l'Italia è stata colpita veramente tanto da questo bruttissimo virus. Un abbraccio a Ralph che mi scrive dalla Germania, mi manda anche un rapporto d'ascolto, un Simpo 24333, e ci ha ascoltato sulla frequenza 9955 kHz e mi scrive: amo l'Italia e potrei piangere quando apprendo le ultime notizie drammatiche del coronavirus lì. È così terribile, soprattutto la parte settentrionale dell'Italia che io conosco molto bene, la Lombardia, Milano, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, dove ero stato spesso e dove ho incontrato così tanti amici italiani, ora in una situazione così brutta. Il mio cuore e i miei pensieri sono con te sempre. Grazie per aver prodotto questo programma nonostante le circostanze. Far connettere il mondo e conoscere l'Italia, sebbene la frequenza, lui dice, della WRMI dei 9955 kHz non abbia come target l'Europa, però riesco ad ascoltarti regolarmente con la mia semplice attrezzatura di ascolto. Grazie veramente, un abbraccio a Ralph della Germania che si sincerava insomma sulla situazione della nostra nazione. E poi un abbraccio all'amico Alberto Silva: caro amico, saluti dal Cile, ti ho scritto, come stai? Questa è la situazione in Italia, com'è la situazione in Italia? Preferisci, mi dice appunto, di prendermi cura della mia famiglia e rispettare le indicazioni dell'autorità. Un saluto e un abbraccio in attesa di tue notizie. Grazie Alberto. Alberto Silva dal Cile, grazie, sto benissimo, tutto va avanti molto bene. E un abbraccio anche a Reginaldo che ci scrive dal Brasile, dal bellissimo Brasile. Ciao, come stai Andrea? Spero sia tutto bene, grazie molto per i tuoi messaggi. Conosci la lingua portoghese? No, purtroppo no, devo essere sincero, ho utilizzato il traduttore per risponderti. Conosco lo spagnolo un pochino, il francese, è bella la tua lingua, la lingua di Dante, e conosco anche l'inglese e il tedesco. Congratulazioni e un forte abbraccio per te e la tua famiglia. Reginaldo dal Brasile. Grazie a questi amici che mi hanno scritto e grazie anche ad altri amici che magari in silenzio hanno voluto non so, magari fa sentire la loro voce. Non mi hanno scritto, però magari mi hanno ascoltato così in silenzio, magari nella loro bella nazione. Come vi dicevo, la situazione in Italia non è delle più belle, però ne stiamo uscendo piano piano, anche perché la nostra sanità è un'eccellenza mondiale. Il bello della sanità in italiana è appunto che cura tutti senza nessuna distinzione di razza e anche di portafoglio. Se venite in Italia, come è successo per i due turisti cinesi, i primi insomma che sono stati ricoverati allo Spallanzani di Roma, appunto affetti da Covid-19, sono stati curati gratuitamente. Quindi non vi preoccupate, la sanità in Italia è un'eccellenza, stiamo andando bene, tutti vengono curati, anche chi è che non ha le possibilità economiche per essere curato, come avviene in moltissimi stati del mondo. In Italia invece sarete curati anche se non avete disponibilità economiche. Ora abbiamo in linea un amico, Marco Arensi, che è praticamente un cantautore milanese, è lui quello che ha fatto la mia nuova sigla che avete ascoltato, I Love Italy, e poi ha composto anche una canzone proprio I Love Italy che avete sentito in sequenza appena dopo la sigla. Abbiamo Marco al telefono. Marco, guarda, io vorrei non interromperti, ti lascio parlare, se magari ci illustri un pochino la situazione a Milano per quanto concerne la tua città, se ci puoi parlare di tutto, insomma, cosa pensi di questo brutto periodo e così via. Marco, ti lascio la parola, non ti interrompo, vai, sei in onda su Radio Miami International. Ciao Marco. Ciao. Sono Marco Arensi da Milano, in questo momento sono in balcone affacciato sulla mia città, una città sicuramente irriconoscibile perché deserta e silenziosa, una realtà molto strana per una città come Milano. Voglio innanzitutto ringraziarti per l'opportunità che mi dai di poter intervenire nella tua trasmissione e mandarti un grande abbraccio, nella speranza di incontrarci poi più avanti, quando tutta la tempesta sarà passata, davanti magari a una bella tavolata, un buon bicchiere di vino. Saluto tutti gli amici che ci stanno ascoltando e niente, io sono in casa da 3-4 settimane, ho la fortuna di poter lavorare da casa da lunedì e venerdì, a differenza di altri che purtroppo non possono farlo e che hanno dovuto chiudere le attività lavorative con un grave pregiudizio economico che non gli consente neanche di arrivare alla fine del mese. Ho un fratello medico che lavora in ospedale con tutti gli operatori sanitari, sottoposti ovviamente a un grande stress e soprattutto a grandi rischi per la propria salute e incolumità, per svolgere il proprio senso del dovere, quello di salvare la vita a più persone possibili. Questi ospedali che ormai sono sovraffollati, abbiamo una quantità di ammalati, soprattutto di morti, molto alta, e dobbiamo uscire da questa situazione, e dobbiamo uscirne il prima possibile. Per uscire il prima possibile dobbiamo tutti collaborare ed essere consapevoli che non possiamo far finta di nulla, cercare scusanti per non adottare le disposizioni che ci sono state date. Sappiamo tutti cosa dobbiamo fare e cosa dobbiamo non fare. E da questa esigenza, dall'esigenza di tornare il prima possibile alla vita normale, salvare la vita alle persone, uscire il prima possibile da questa situazione, è nata questa canzone che ho scritto un paio di sabati fa, e l'ho registrata in casa, in particolar modo in cucina, per cui l'audio purtroppo non è un granché, perché in casa non ho molti strumenti per poter registrare, però l'importante è il messaggio che volevo lanciare, e il messaggio è: non solo restiamo a casa, ma restiamo a casa in maniera rigida, in maniera tale da poter adottare tutti insieme contemporaneamente tutte le disposizioni che sappiamo quali sono, in maniera sistematica, senza eccezioni, perché in questo modo e solo in questo modo riusciamo a uscire da questa situazione. E che dire, Andrea, ti ringrazio ancora, ti faccio i complimenti per la tua trasmissione, anzi le tue trasmissioni, e i complimenti anche per la bravura, perché secondo me sei un ottimo speaker, un ottimo DJ, e un saluto a tutti. Grazie. Pensa che ieri io prendevo il metro, c'era chi spingeva gli zaini sulla faccia della gente, tutti per uno, per tutti e soltanto sulla pagnuna per sé. Ma adesso sento che qualcosa è cambiato, c'è uno strano assordante silenzio in città. Non era mai successo prima, ma è caduto, tu sai. Molta gente intanto muore, ma qualcuno combatte come non mai. Ma c'è bisogno di te affinché la tempesta passi in fretta e si possa tornare a una vita normale. Perché sei tu la città, sei tu la nazione, sei tu il mondo, tu sei noi. Resta a casa e comincia a guardare la città, sei tu la nazione, sei tu il mondo, tu sei noi, dipende da te. Canzone meravigliosa di Marco Renzi da Milano, che mi ricorda così tanto Bob Dylan, questa armonica bellissima. Abbiamo terminato I Love Italy anche per quest'oggi. Un abbraccio a Jeff White, a tutta la sua famiglia. Grazie Jeff per permettermi di essere ancora qua con tutti gli ascoltatori. L'Italia sta piano piano rialzando la testa e lo faranno anche tutte le altre nazioni. Un abbraccio, veramente una preghiera per i nostri angeli, medici, infermieri, OS, tutte le persone che lavorano negli ospedali, nei pronto soccorsi, nella Croce Rossa. Un abbraccio a tutti e mi raccomando, restiamo a casa, ma pronti ancora una volta per essere pronti ad uscire e a divertirci tra poco. Dai, che tutto andrà bene. Un abbraccio a tutti, sia lodato Gesù Cristo, perché e insomma è il mese della Santa Pasqua, della rinascita, della risurrezione di Gesù Cristo, e sarà anche una risurrezione per tutti noi. Alla prossima, un abbraccio da Andrea di I Love Italy. Ciao.